ovviamente ad esprimere tutta la nostra solidarietà, questa solidarietà che nel 1985, dopo gli americani di We Are The World, gli artisti inglesi esprimono con Band Aid Project e con una canzone in particolare i cui proventi sono stati poi destinati ad aiutare le popolazioni dell'Etiopia colpite dalla carestia. Do they know it's Christmas? Ma lo sanno che è Natale? Band Aid. Ma lo sanno che è Natale? Ma lo sapevano, però non stavano tanto bene in quel periodo in Etiopia. Ma volevo che succede dirti... in Italia, Franco? Ma succede in Italia che anche qui si sono fatti un po' contagiare dalla solidarietà. Beh, ha contagiato i nostri artisti e ne è uscito fuori questo. Una musica dolce suona. Sentite, questo è Fabrizio De André, veramente riconoscibile, eh? Volare, dove hanno partecipato fra gli altri anche Vasco Rossi e Patti Pravo, Gianna Nannini e tantissimi altri. Sai, Alessandra, che? Prima quando sentivamo We Are The World, la gente si chiede: ma come hanno fatto a mettere tutti quei musicisti americani nella stessa sala la stessa sera? E come hanno fatto? Come hanno fatto? Perché Quincy Jones, che è un po' il maestro di cerimonie della musica americana, il internazionale, non gli si può dire di no. Lui che cosa ha fatto? Ha organizzato tutto perfettamente. È in coda agli American Music Awards, c'erano un po' tutti, che non c'era, è venuto apposta, ha detto venite in studio, quindi alla fine sono andati tutti in studio e in un 3-4 ore hanno registrato tutto. Una grande organizzazione, no? Non pensi. Molto furbo, ha detto siete già tutti qui, E che diceva di no a Quincy Jones. Comunque, capito? Tutto è iniziato negli Stati Uniti, però se non sbaglio c'è stata qualche defezione illustre, una in particolare. Esattamente, quelli che un po' se la tirano, vero? Forse. Beh, anche quelli che poi magari dicevano sì, ci vado o non ci vado, ma dai, ma te lo puoi permettere, sei in vetta alle classifiche, magari lo può prendere un aereo privato, no? O no? O sì. Eccola. Material Girl, Madonna, beh, più materiale di così, la grande assente da questo... We Are The World. Dici, Alessandra. Perché era materiale? No, non lo so, ma forse... Può essere. No, se la tirava e basta, diciamocelo, Alessandra. Intanto, Franco, in Italia, a Roma, il 27 marzo del 1985, un comando delle BR uccide l'economista Ezio Tarantelli, 43 anni, consulente della CISL e impegnato nella riforma della Scala Mobile. Era docente di economia politica all'Università di Roma e in una tribuna sindacale del 1982, Ezio Tarantelli fa una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana. Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che se tutto va bene resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti. E a proposito di malessere sociale, ma non solo, il 10 giugno del 1985 al referendum sulla Scala Mobile vincono i no col 54%. Mix 24, musica e storia. Shout Tears for Fears. Come Alessandra. On Franco Schifani, on, I'm talking to you. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1985. Franco, Shout Tears for Fears. Beh, shout, urla. E il 24 giugno in Italia Francesco Cossiga succede a Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica Italiana e per la prima volta tutto succede al primo scrutinio e con una larga maggioranza, 752 favorevoli su 977 votanti eleggono il nuovo Presidente della Repubblica. E il primo messaggio del Presidente, che è del 31 dicembre del 1985, porta il suo pensiero a un attentato che ha appena sconvolto il Paese. In questo momento il primo pensiero va al gravissimo crimine che ha colpito la pace civile della nostra comunità. Un comando di terroristi stranieri ha seminato morte e dolore sul nostro territorio, nel nostro aeroporto, con un atto di inaudita ferocia, uccidendo e ferendo cittadini di altri stati, ospiti della nostra nazione, e anche cittadini italiani, che tutti si apprestavano a giorni di serenità, e più a rientrare nelle loro patrie e nelle loro famiglie. La nostra condanna di cittadini di una nazione civile, la nostra condanna di uomini durissima, senza appello, senza riserve, senza alcun tentativo contorto di impossibile spiegazione o comprensione. Gli inauditi atti di violenza da cui siamo stati colpiti sono per noi motivo di profonda amarezza. Comprensione per ogni giusta causa sì, ma condanna e lotta ferma e decisa contro il terrorismo. Il 27 dicembre, infatti, a Roma, due bombe palestinesi esplodono davanti al check-in della compagnia aerea israeliana El Al all'aeroporto di Fiumicino. È stato un bagno di sangue indescrivibile, una strage che lascia veramente tutti attoniti. I terroristi sono entrati in azione improvvisamente sparando all'impazzata contro decine e decine di persone. A terra sono rimasti i cadaveri di 13 persone. Alle 9:05 il comando è entrato in azione. I morti alla fine sono 15. Ibrahim Khaled è uno degli attentatori e quel giorno ha 18 anni. Non c'è una vera e propria decisione di diventare militante, io penso, perché questa è una cosa che cresce piano piano, no? Si matura senza che uno se ne rende conto. Un giorno io ho assistito al funerale di un mio amico che ha preso questa decisione di partire con i guerrieri. Dopo qualche giorno è ritornato cadavere. L'hanno festeggiato come fosse un eroe. Dopo qualche giorno anch'io me ne sono andato con i guerrieri. Avevo 12 anni o 12 anni e mezzo, insomma. Io quando vedo gli altri ragazzi adesso che la pensavano come pensavo io, dico è inutile farsi saltare in aria o fare dei danni agli altri. Perché alla fine non serve e alla fine tutto si paga. Ora che sto quasi per finire posso dire sì, io chiedo scusa mille volte alle vittime, ai familiari delle vittime. Il terrorismo palestinese in questo 1985 è protagonista anche di un altro attentato. Il 7 ottobre un comando palestinese sequestra la nave italiana Achille Lauro con 500 passeggeri. I sequestratori si arrendono dopo 3 giorni, dopo aver ucciso un americano disabile, Leon Klinghoffer. Beh, torniamo alla colonna sonora di questo 1985. Non è assolutamente facile, però dobbiamo farlo. Quindi torniamo a questa colonna sonora del 1985. Ecco, quello di Sanremo innanzitutto è un festival sottotono, perché ormai gli artisti non cantano più dal vivo, cantano in playback. È una specie di MTV all'ennesima potenza, ma diciamo, magari. Tu. Vincono i ricchi e i poveri, ma i vincitori morali sono questi due. Una storia importante, Rosa Ramazzotti e donne, Zucchero Fornaciari. Lo sai, Fornaciari, che mi stai facendo riscoprire un sacco di cose, tipo una storia importante di Eros. Piano piano, una grande scoperta. Beh, sono contento, Alice. Grazie, molto Franco Schipani. Di intrattenerti. Grazie. Prego. Franco, intanto il 4 febbraio del 1985 inizia a Napoli il maxi processo contro la nuova camorra organizzata. 8 mesi prima Enzo Tortora era stato eletto eurodeputato nelle fila del Partito Radicale e quindi può seguire il processo da uomo libero. Il maxi processo si conclude il 17 settembre con 137 condanne. Tra queste c'è anche quella di Tortora a 10 anni di reclusione. Nonostante l'evidenza, le accuse degli 11 pentiti hanno retto al dibattimento e l'ex divo della televisione, protetto dall'immunità parlamentare, si consegna, resterà agli arresti domiciliari. Quello a Tortora è un vero e proprio processo mediatico. Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata. Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza d'asino da santi tutte le sue messiscene. Se lo permette la corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità. Quello che ho visto lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare. Caro signor pubblico ministero, non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un Portobello, c'è un numero, ma non il suo. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. Come sappiamo, Tortora è stato totalmente scagionato e oggi è il simbolo del linciaggio mediatico. La sentenza di assoluzione arriverà il 17 giugno del 1987, esattamente 4 anni dopo l'arresto. La Camorra intanto non si arrende. Il 23 settembre il giornalista del Mattino, Giancarlo Siani, viene ucciso a Napoli. Siani aveva 26 anni e con coraggio e determinazione stava indagando sulla Camorra di Torre Annunziata, scoprendo intrecci fra politica e criminalità. Alla storia del giornalista, diventato oggi un simbolo, nel 2009 Marco Risi ha dedicato il film Forta Pasch. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. E allora perché lo fa? Perché è il mio lavoro, perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene. È che la criminalità, la corruzione non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo: informare. Partendo da Zurigo c'è così tanto da scoprire. Nairobi, per esempio. Approfittate dei tempi di transito brevi e volate in tutta tranquillità con Swiss via Zurigo verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Per esempio Nairobi, ora con tariffe a partire da 399 euro. Prenotate ora su swiss.com. Tariffa andata e ritorno da Milano, tasse e supplementi inclusi. Acquistabile entro il 22 novembre 2016 per viaggi fino al 30 marzo 2017. Soggette a restrizioni e disponibilità limitata. Condizioni su swiss.com. Nome? Mario. Cognome? Rossi. Interessi? Cinema, corsa e il 2,5%. Il 2,5%? Ma che interesse è? Ah, è il mio preferito. Me lo offre Conto Progetto, il nuovo conto deposito senza vincoli. Basta andare su www.contoprogetto.it o chiamare l'800 06 0909. Messaggio promozionale. Tasso annuo 2,5% per 90 giorni dall'attivazione per sottoscrizioni entro fine 2016. Tutte le condizioni nei fogli informativi su contoprogetto.it. Guarda avanti, senza lasciarti sorprendere. Non puoi sapere cosa accadrà e cosa farai domani, ma già oggi puoi guidare il tuo futuro. Team System guarda al tuo futuro con ACG Enterprise. L'ERP su tecnologia IBM Power Systems lo inventa e lo racconta. Bologna, Milano, Napoli, Bari, Roma, Padova, Torino. Dall'8 al 29 novembre Team System, in collaborazione con IBM, ti invita al Futuro Tour. Scopri di più e iscriviti gratuitamente su futurotour.com. Mancano pochi giorni a Forum Agenti Milano, la fiera dei colloqui di ricerca agenti. Se la tua azienda cerca nuovi agenti di commercio, oggi è il momento di agire. Vai su agenti.it, prenota subito il tuo stand a Forum Agenti Milano, perché incontrare gli agenti di persona vale più che ricevere 1000 curricula. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Siamo qui con... Prassinetti Davide. Prassinetti Daniele. Siete i fratelli della TV? In persona. Siete tutti e due artigiani? Sì, ben parlato da papà. Qual è la cosa più bella del vostro lavoro? Vedere il divano quando è finito. Ha sempre soddisfazioni. Come un bambino quando nasce. E se vi dicessi che in poltrone sofà non si paga l'IVA e c'è un ulteriore 22% di sconto? Questa roba qui è un affare. E si può anche pagare un po' per volta. È comodissimo. Bisogna per forza approfittarne. Allora andiamo! Le promozioni terminano domenica e la consegna è garantita entro Natale. Poltrone sofà, artigiani della qualità. In un mondo regolato da formule e algoritmi, noi siamo molto più che numeri. Sono Anna, il tuo consulente Geniertel in live chat. Siamo le orecchie che vi ascoltano. Ciao. Io sarei in vacanza, ma devo rinnovare la polizza auto. Siamo gli occhi che vi trovano. Certo, ti mando il certificato per circolare mentre siamo in chat. E anche quando non siamo lì con voi, noi ci siamo. Geniertel, siamo molto più di un'assicurazione online. Chiama all'800 20 20 20 o vai su geniertel.it. Sai, fino a pochi anni fa la gente pensava che i comuni avessero sistemi informatici sbiaditi. E ora invece cosa è cambiato? Con l'evoluzione normativa digitale che c'è stata in questi ultimi tempi, piccoli e grandi comuni hanno realizzato sistemi integrati che sono efficientissimi. Come fai a dirlo? Io che viaggio ho visto tanti comuni che lavorano con la soluzione Digital Pal Syscom. Bella scoperta! Bastava che chiedessi a noi che utilizziamo Digital Pal Syscom da sempre e che veniamo considerati un comune digitale modello. info@syscom.eu. Avvocato, cerchi l'articolo 31. Dovrebbe essere la pagina 200 del tomo. Che tomi, collega? Mi loggo sul portale, faccio una search cross content e lo trovo in tempo zero. Easy. È ora di aggiornare i tuoi strumenti di lavoro. Scopri Plus Plus 24 Diritto, l'upgrade dell'avvocato, su plusplus24diritto.com. Sai quanto spazio occupa un esserino di 60 centimetri tra vestitini, pappe, giocattoli? Per questo nuova Fiat Tipo Station Wagon dà spazio alle famiglie italiane e dà spazio anche a un nuovo modo di guidare. Oggi con BeFree nuova Tipo è tua a €249 al mese. Nessun anticipo, bollo e assicurazione inclusi. E dopo un anno la puoi restituire quando vuoi. Fino al 30 novembre salvo approvazione Lisis. Info e condizioni su fiat.it. Fiat Tipo, ci vuole poco per avere tanto. Rendimax, il conto deposito di Banca Ifis pensa ai tuoi risparmi. Con la promozione su vincoli top a 18 mesi ottieni il 2% tasso lordo. Apri il conto con firma digitale su rendimax.it. Offerta valida fino all'11 novembre 2016. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Vedi regolamento e foglio informativo su rendimax.it. Radio 24, verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali, verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 10. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1985 e caro Franco Schipani, cara Alessandra Fiori, prima della pausa noi stavamo sentendo che il dovere del giornalista è informare attraverso il film Fortapache, che racconta la storia di Giancarlo Siani. Ma se il dovere del giornalista è informare, quello di Franco Schipani in particolare è quello di tornare alla musica. Bravo Franco. Torniamoci con il Festival Bale nel 1985, grazie a Canale 5 che ha trasformato questa manifestazione, che prima era considerata un po' di serie B, l'ha riportata in serie A, anzi nella Champions League. Tant'è vero che guardate un po' che successi ha prodotto nel 1985. L'estate sta finendo, i Righeira, che cosa succede in città? Vasco! Che cosa succede al Festival Bar? Quali ospiti internazionali si presentano, Franco? Beh, al Festival Bar vengono moltissimi ospiti internazionali, che sono gli ospiti che di solito la gente non aveva occasione di vedere spesso in televisione, a parte il mio programma che si chiamava Disco Ring, dove io ogni settimana ero lì imperterrito con, ma tutti, da Bruce Springsteen a Michael Jackson, ormai è storia. Comunque, al 1985, al Festival Bar del 1985, tra gli altri si sono esibiti Money's Too Tight, Simply Red and Slave to Love, Brian Ferry. Attenzione, perché Alessandro Campini, c'è stata Campini, la confessione il nostro Alessandro Campini ha detto: ma quanto pomiciato. Sì, però gli è stato fatto subito notare che aveva 10 anni e che a 10 anni era un po' complicato. Ecco, ma secondo te, Chiappini, si pomiciava più con Brian Ferry oppure con Barry White? Barry. Chiappini ha detto Barry. È un ragazzo sano, Chiappini è un ragazzo sano. Comunque, Schipani, scusami, è Slave to Love, ma secondo te è schiavo d'amore o schiavo d'amare? Aspetta, d'amare che vuol dire? Da apostrofa mare oppure da mare. Quella è la terza variante, quella non terza è male, variante. Lo schiavo da mare. Tu ce l'hai lo schiavo da mare? Ma tu stai parlando con uno che è stato mollato da 4 donne in una settimana, per carità, Alessandra, non se ne parla Franco, neanche. Scusami, allora guardala in un altro modo, io sto parlando con uno che ha avuto 4 donne nella stessa settimana. No, no, no, mi hanno mollato in 4. Ho capito, ma vuol dire settimana. Che le avevi 4 insieme, ma sì, nella stessa erano settimana. Erano 4 amiche che frequentavo, adesso non scendiamo in dettagli, va però bene. È ufficiale. E perché ti hanno mollato? La prima come ha hanno trovato usato? Un fidanzato, la seconda si è rimessa col marito, la terza ha trovato una sua strada, diciamo, professionale tutta altra. Sua la quarta è diventata buddista, il maestro gli ha detto: guarda, per un anno ti devi occupare più del tuo della tua mente, più del tuo corpo. Quindi cosa per un mai anno... occupati del mio corpo? No, ma io gli ho detto: scusa, quindi... io dico, ma quando è cominciata questa, quanti mesi fa è cominciata? C'è una cosa recente? No, è cominciata poche settimane fa, quindi speranze zero. E su questo Frankie Goes in Bianco noi andiamo all'estero. Il 10 marzo a Mosca, Mikhail Gorbachev viene eletto segretario generale del Partito Comunista e diventerà uno dei maggiori protagonisti della nostra storia più recente. E poi il 14 giugno 5 stati membri della CEE firmano gli accordi di Schengen: Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi. L'accordo favorisce la libera circolazione dei cittadini all'interno del cosiddetto spazio Schengen, appunto. L'Italia aderisce nel 1990. E poi il 3 dicembre il Consiglio europeo fissa al 31 dicembre del 92 però il limite per il completamento del mercato unico in Europa. L'euro invece arriverà, come sappiamo, il 1 gennaio del 2002. Ma a Bruxelles, caro Franco, intanto il 29 maggio si consuma una delle pagine più buie del calcio europeo. Durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, gli incidenti allo stadio provocano la morte di 39 persone e 32 sono italiani. I feriti saranno oltre 600. La finale però si gioca lo stesso. Questo il ricordo di alcuni testimoni di quella tragedia. Dopo 2 minuti dello schiacciamento mi sono sentito scivolare con scarpe da ginnastica, con le stringhe, cioè lo sentite scivolare dai piedi proprio. Ma c'è un vuoto come che, sai, mi sono accorto che ero stato a piedi nudi e coi piedi non toccavo più neanche per terra. Fino all'ultimo ho cercato di tenere mia moglie per mano e poi mi ricordo che a un certo punto non la tenevo più, che mi sono trovato sdraiato per terra. E niente, sono rimasto lì sotto per un 3, 4, 5, 10 minuti, non lo so bene, perché poi i minuti lì sono un'eternità. So solo che non riuscivo più a vedere, non riuscivo più a respirare, nel frattempo avevo perso occhiali, quindi la vista ce l'avevo leggermente offuscata e praticamente non vedevo niente. E in quei momenti mi è venuto in mente tante cose, solo che l'unica cosa che mi ricordo è che dicevo fra me e me: sono venuto a Bruxelles per morire, per vedere una partita. L'interrogativo se sia stato giusto giocare quella partita resta ancora oggi. In campo, quella maledetta sera, c'era anche Marco Tardelli. Noi ci siamo sempre pentiti. Io non ho mai sentito la Coppa dei Campioni di Bruxelles come una vittoria. È stata una sconfitta per tutto il mondo del calcio e tutto il mondo sportivo, e non solo sportivo. Beh, Alessandra, morire durante uno spettacolo che dovrebbe essere soltanto un divertimento, che ne so, una partita di calcio, un concerto, ti lascia sempre comunque nel cuore un grande, grande dispiacere. Comunque, io in quel momento ero a New York, ero vicino al Madison Square Garden. Tu sei sempre a New York? Oh, ma sì. Com'è questa cosa? Ero lì perché ho vissuto lì fino a poche settimane fa. Secondo me comunque ne fai una questione di comunità. Quando ti pare sei in Italia, quando vuoi sei a New York, è bellissimo. Lo posso fare anch'io, non c'ero, ero a New York. E comunque al Madison Square Garden andavo spesso e la prima volta che ci sono andato, pensa, ho sentito lui. Born in the USA, Bruce Springsteen, Rhythm of the Night, El DeBarge. DeBarge, senti Franco, ma lo sai che il 1985 in Italia è stato l'anno del grande freddo? The Big Chill. No. Del film cult. No, cioè, assolutamente sì, sì, però struggente, amaro, malinconico come pochi, anche, e divertente, anche divertente, è vero, dai. Però è del 1983. E invece il grande freddo italiano dell'85 è stato quello che ha portato la neve a Cagliari. Pensa che nel bolognese si toccano i meno 29 gradi e a Firenze i meno 23. A Milano una nevicata senza precedenti deposita sul manto 70 centimetri di neve. E poi poi nevica anche a Roma e a Napoli. Ma lo sai che a Roma, sai cosa si faceva? C'erano quelli che venivano giù con gli sci, con gli slittini, con il sacco della spazzatura direttamente da Monte Mario e dalla panoramica. E poi Roma si presta, perché ci sono la sette colli, come no, assolutamente. Io invece mi ricordo che ho fatto, quello stesso anno che faceva freddo un po' dovunque, mi ha detto vai a fare uno show sul freddo a New York. Io sono andato sul lago, sull'Hudson, che era ghiacciato, era faceva talmente tanto freddo, con le pati guanti, ho tenuto il microfono in mano e mi è rimasto attaccato. Oddio che male. Comunque guarda, dal freddo italiano, da quello di New York, arriviamo all'iceberg del Titanic, perché nel 1985 una spedizione franco-americana individua il relitto del leggendario transatlantico. My heart will go on, Celine Dion. Hai fatto il trucco, hai fatto un barbatrucco. Celine Dion, The perché Heart Will Go On. Perché non è ovviamente dell'85? Ma è del... Vabbè, adesso Franco, vabbè, difficile. È molto dopo. Diciamo. Comunque, 97! Me l'ha detto Migliaccio, 97, bravo, becca, bravo, e porta a 97. Casa. Comunque ogni volta che tu senti questo brano, vai automaticamente, c'è l'immagine di loro sul Titanic. You have Leo. Assolutamente. Franco, della serie cosa vi siete persi nelle classifiche internazionali del 1985 in Italia? In Italia vi siete persi questi. Easy Lover, Phil Collins, batterista dei Genesis, e Phil Bailey, la cantante solista degli Earth, Wind and Fire, and I Got You Baby, UB40. Lo sai che UB40 mi piacciono da pazzi, ho scoperto che sono inglesi? Io non lo sapevo, Franco. Beh, sono inglesi, confermato. Grazie. E allora, invece, ti faccio sentire dei brani che non hanno fatto nessuno sforzo a entrare in classifica. Dancing in the Street, David Bowie and Mick Jagger, e poi sempre Mick Jagger da solo con Just Another Night. Just Another Night. Soltanto un'altra notte, Alessandra. Che fai a Mickey? Lo sai che ero sempre a New York, sempre lì. Allora, mi chiama una mia amica dalla CBS e mi dice, ma la vostra troupe, quello che ti adopera, è sindacale? Dico, no, quella che adopera non è sindacale. Perché? Dice, potresti venire a casa mia con la tua telecamera, perché dobbiamo fare una cosa? Dico, che niente. Tu chissà che ci hai visto dietro. Ma non lo so, telecamera, però so, vado lì, dico, guarda, le luci pensiamo noi. Arrivo, trovo luci nel suo splendido salotto, tutto organizzato, metto la telecamera. Quanti microfoni devi portare? Solo uno. Ok, entra Mick Jagger, perché era un'intervista che si poteva fare soltanto di nascosto, perché era il suo primo disco solista, che si chiama appunto She's the Boss, del 1985, e questa cosa non si doveva sapere. Però è stato un bel impatto, ti assicuro, quando lui è entrato, sai? Ma lo sai che nello stesso momento in cui c'era questo impatto tuo con Mick Jagger in Giappone, per esattezza il 13 settembre, c'è un'altra piccola grande rivoluzione, perché esce Super Mario Bros. Te lo ricordi? Assolutamente. Pazzesco, con lui beh, diventa, ci ha cambiato la vita a tutti improvvisamente incollati sugli schermi. E intanto il 20 novembre viene inaugurato il sistema operativo Windows 1.0. Io ridevo prima quando tu mi parlavi di Mario Bros, perché negli Stati Uniti, devi sapere, quando tu entri in un ristorante italiano e non hai la prenotazione, guardi il maître d'hôtel e fai, sì, io sono amico di Mario. Mario c'è sempre. Mario c'è sempre. Ti danno, è come il bagno in fondo a destra. Sì, praticamente è così. Si trova sempre. Allora, in quel periodo si parlava di Mario Cuomo, che poi è stato il governatore dello stato di New York. Oggi c'è il suo figlio Andrew, che è il governatore. E noi ridevamo perché dice, dai, un giorno tu puoi andare tranquillamente lì al palazzo del governatore, entrare dentro e dire, scusa, c'è Mario, per favore. Dice, sicuramente un posto te lo trovano e ti fanno entrare, capito? E ti fanno partire anche la musichetta di Super Mario sotto. Assoluta, questo... così volevi. Questa volevo. Franco, però ho notato una cosa. Dimmi cosa hai notato, Alessandra. Ho notato che in questo 1985, nella tua playlist, nella nostra scaletta, hai messo pochi pezzi italiani. Perché? Perché mi sono tenuto il meglio per ultimo. Souvenir, Mattia Bazzara, lei, Anna Oxa e l'aiuola, Fiorella Mannoia. Alessandra, dimmi. Sai, l'aiuola, vedi quante consonanti ha e quante vocali ha? L'aiuola. Aiuola, qual è la parola che ha lo stesso numero di vocali? Ho tanta paura di rispondere, Franco, perché? Cuoiaio. Cuoiaio? Cuoiaio, cuoiaio. Va bene, Franco si è svegliato tanto bene questa mattina. Allora, Franco, Cuoiaio nel 1985 va in onda su Rai 2 alle 23.10 la prima puntata di una trasmissione calda. Al mattino è un po' grigio. Vabbè, Franco, ovviamente è Quelli della Notte che diventa un cult e lancia moltissimi nuovi comici. Concludo. Mogli e buoi dei paesi tuoi è uguale a quello di ieri sera. No. La calvizie è vinta? No. Tutto diverso. Tutto diverso. Un eletto. Piccolissimo. Era il 007 marzo 1555, mille in più, mille meno. No, è uguale. E James Sani Gesualdi aveva un amico che si chiamava Enrico. Lui si confondeva perché non sapeva qual era il nome, qual era il cognome. Ma tanto se sbagliava era uguale. Bravo. E questo si è sposato con una donna che non era del paese suo, non era di Scasazza, era una hostess. Hostess. Nel 1500. Hostess che lavorava con l'oste del. Ah, una stessa. Come si dice? A Napoli si dice hostess. Hostess. Un altro significato a Napoli, hostess. Franco, naturalmente Nino Frassica, però scusa, ma buoi, uguaglio. Cuoiaio è la giornata delle vocali. Oggi sì. Oggi tante sì. Tanti vocali, è un cuoiaio di vocali. Però parte anche un'altra trasmissione, eccola, in questo 1985, sì, ed è Buonasera Raffaella. Tutti gli spettatori invece, perché sono le 2:30 qui negli Stati Uniti, come sapete stiamo trasmettendo via satellite da via satellite, perché nascono anche Buona Domenica su Canale 5 e Forum. Alla conduzione del programma ci sono alternate nel corso degli anni Catherine Spack, Paola Perego, Rita Dalla Chiesa, che è stato il volto storico della trasmissione, e poi adesso Barbara Palombelli. Bravissima. Bravissima. Sono un fan sfegatato. Lo so, Franco, anche io. Perché sta facendo degli ascolti pazzeschi. Pensa che dopo 30 anni di trasmissione, nella scorsa stagione, l'ha portata a una media di 1.800.000 spettatori, con picchi oltre il 24% di share. Ma è stata bravissima. Funziona un pochino. No, funziona perché è stata brava. Lei ha fare un lavoro di, come si dice, restyling. Sì, infatti le hanno date ragione. Comunque, quando tu parlavi di Raffaella, io ho fatto il produttore esecutivo a New York del programma di Raffaella tutti i giovedì dal vivo dagli Stati Uniti. Tu, come c'era qualcosa di italiano a New York, arrivavi? Ma era obbligatorio, era o lavori con me o perdi tempo. Sono certezze che ho, allora. Certezze assolute. Comunque mi ricordo che proprio l'ultima trasmissione, ormai si erano abituati a venire al Silver Cup Studio su tutti gli ospiti e poi la gente che veniva invitata un po' da tutti i quartieri di New York, e all'ultima puntata sul finale facevano Raffaella, don't go. Don't go, Franco. Paul Young, every time you go away. Ogni volta che te ne vai, Alessandro. Franco, ma quando me ne vado io? Ma non te ne andare, guarda, mi sento molto. Don't go, tranquillo. No, don't go. Ma adesso, sai, va, go il 1985. Siamo arrivati al momento di Antonella Migliaccio. Esatto. Che cosa ci ha scelto questa settimana? Per salutare il 1985, caro sì. Franco, Antonella Migliaccio ha fatto uno scoop, perché ha scelto un successo dell'85 che è La vita è adesso di Baglioni, cantato da oggi da Claudio Baglioni con colpo Gianni di scena. Morandi. Con Gianni Morandi. Pazzesco. colpo di scena. Esatto, quindi noi vi salutiamo con questo duetto imperdibile e ci risentiamo nel 1986, ovvero Franco. Ciao da Franco Schipani. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao da Alessandra Fiori.